piano pescano l'anima di questo mondo, emergendo le radici, abbracciando l'equatore. Vorrei tu facessi lo stesso con la mano sul mio cuore. Quando mi guardi negli occhi vorrei finire nel frullatore. Ma dimmi come si può stare. Riunione, senza sapere dove, senza sapere come. Vorrei tu facessi lo stesso, chiamandomi col mio nome. L'amore attraversa lo spazio, i chilometri, gli anni luce. Ma dimmi come si può stare bene. Suo riflesso e una banda suonava lontano una musica blues. Ci sarebbe